TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Famiglia di 8 persone da Gaza a Trieste per curare a Catinara un paziente oncologico grazie all'ultimo ponte umanitario con la Striscia. Bovini maltrattati e carcasse sepolte insieme ai rifiuti, denunciato dai carabinieri un allevatore di Gemona del Friuli. La difesa di Paolo Calligaris, condannato a 16 anni per la morte di Tatiana Tulizzi, ricorre in Cassazione, travisati i fatti, dicono gli avvocati. Scioperano i farmacisti dipendenti, in regione sono 1.500, non c'è accordo con Federpharma sugli aumenti salariali. Tradizionalmente settore maschile, ma anche l'edilizia cambia. Cristiana Viduli alla guida di Edilmaster a Trieste. Azionariato dei dipendenti, da Pordenone ne parla la docente di management Cristiana Compagno. Nuovo paradigma tra capitale e lavoro. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Il 16° corridoio umanitario ha portato in Italia 112 profughi palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. Una famiglia di 8 persone è stata accolta a Trieste. Il padre, paziente oncologico, è ora ricoverato a Catinara. La moglie con i figli è invece ospitata a casa Malala. Non siete soli, l'Italia è stata generosa con noi e con voi ora, così Veam, la madre palestinese arrivata con il primo corridoio umanitario, commenta la notizia. Nella struttura d'accoglienza di casa Malala Fernetti stanno riposando dopo un viaggio faticoso. Sono arrivati nel cuore della notte, infatti, mamma, papà, 6 figli provenienti da Gaza. Il più piccolo ha 4 anni, a bordo di un volo umanitario sono atterrati all'aeroporto di Verona assieme ad altri connazionali palestinesi poi smistati in diverse città. 112 persone complessivamente partite dall'aeroporto di Eilat con 3 diversi voli militari. La città di Trieste ha accolto appunto questa famiglia, il cui padre, affetto da un tumore all'intestino, è ricoverato a Catinara. Mamma e figli sono accolti appunto in questa struttura che si trova a ridosso del confine. Sono arrivati alle 3 del mattino. In questa struttura ci sono 144 persone e molti bambini. In questa stessa struttura il 2 ottobre era stata accolta un'altra famiglia palestinese, arrivata sempre con corridoio umanitario. Andò subito a trovarli Weham, mamma palestinese che arrivò a Trieste 1 anno e mezzo fa con la sua bimba Giulia, affetta da una grave patologia e seguita al burlo, ed era incinta della secondogenita che partorì il giorno del suo arrivo. Siamo andati a casa di Weham. So Weham, you are visiting them in casa Malala. What will you say to them? Weham, ti chiediamo che cosa dirai a questa famiglia. Li andrai a trovare sicuramente nelle prossime ore. I say for them that they are in the safe place. They are not alone. We are all here for them because loro sono in un posto sicuro. Noi siamo qui per loro. Non sono soli. Questo gli dirò. Because many people here in Italy is very good and they want to saw us still in our lives and safe place. Molte persone sono qui per aiutarli e vogliono che loro siano in un posto sicuro, in un posto felice. Weham, how are you now? Come stai, Weham? I am fine, but still the feeling overthinking, actually. Sto bene, ma naturalmente ho molti pensieri anche per la famiglia. Your family is still in Gaza, right? Yeah, the situation there is very hard and I think about them a lot. They are still suffering. The life there is not easy. It's so, so hard. La vita in Gaza non è facile, è difficile e la mia famiglia è ancora lì, quindi penso molto a loro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. A Gemona del Friuli i carabinieri forestali del distaccamento di Tolmezzo hanno scoperto diverse irregolarità in un allevamento di bovini. Appena entrati nella stalla, nel gemonese, i militari dell'arma si sono trovati davanti mucche talmente magre e denutrite che già da tempo non producevano più latte. Dopo aver accertato nel corso di un'ispezione condizioni di sofferenza insostenibile per una trentina di bovini, i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura a distaccamento di Tolmezzo li hanno sequestrati e affidati ad un'altra stalla della regione che potesse dar loro le cure necessarie. Denunciato a piede libero un allevatore del territorio, dovrà rispondere non solo di maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Contestati altri 2 reati, smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi e falsità ideologica in atto pubblico. In un terreno adiacente di pertinenza della stessa azienda, infatti, l'uomo aveva sepolto, accanto ai rifiuti da demolizione, le carcasse di 9 mucche, alcune ritrovate in avanzato stato di decomposizione. La scomparsa degli animali era stata denunciata di recente dall'allevatore a carico di ignoti. Verosimilmente l'indagato, per non pagare i costi di smaltimento, avrebbe deciso di seppellirle e denunciarne la fuga. I carabinieri stanno già tenendo d'occhio l'attività per via dell'anomalo numero di denunce di sparizione e si sono insospettiti alla vista di un terreno smosso di recente dal quale proveniva un odore acre. Utilizzato prima un magnetometro, poi un escavatore, rinvenute e sequestrate anche 60 marche auricolari, alcune delle quali risultano appartenenti agli animali sepolti. Il controllo dell'azienda agricola rientra nelle attività ordinarie di ispezione dei militari dell'arma assieme al personale veterinario di ASUFC. L'allevatore rischia fino a 2 anni di reclusione e un'ammenda fino a 26.000 euro. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E omicidio Tulissi, ora un nuovo capitolo del processo per l'assassinio di Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola nella villa di Manzano in cui viveva con il compagno Paolo Calligaris nel novembre del 2008. Calligaris era stato condannato lo scorso marzo a 16 anni di reclusione in corte d'assise d'appello di Venezia. Ora i suoi legali ricorrono in Cassazione. Per la difesa dell'uomo quella condanna si basa su stupefacenti travisamenti dei fatti, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione dei tempi in cui la testa chiave ha riferito di aver sentito un rumore riconducibile a dei colpi di pistola, un rimescolamento dei tempi che per i legali i giudici hanno introdotto per anticipare il momento del rientro a casa del figlio della testimone e far tornare così i conti del tempo di ascolto dei botti. Queste le parole dei legali. Per gli avvocati Rino Battocletti, Alessandro Gamberini e Cristina Saloni, plurimi vizi e clamorosi travisamenti della sentenza sono da soli sufficienti a demolire il complesso impianto motivazionale che fonda la responsabilità dell'imputato. La responsabilità rimane insomma appesa esclusivamente alla testimonianza di una vicina di casa che quella sera sentì dei botti e gli riferì, ma in tempi e modi del tutto incompatibili con lo sparo dei colpi di pistola, hanno scritto i legali per comunicare la decisione. In realtà hanno chiosato si trattava degli scoppi della marmitta rotta del mezzo guidato dal figlio dell'imputato. La difesa chiede che la Cassazione annulli la sentenza e riconosca l'innocenza di Calligaris e cita anche una analogia con il caso di Garlasco, perché l'imprenditore, così come Alberto Stasi, condannato per la morte di Chiara Poggi, sono stati ritenuti falsi scopritori dei cadaveri delle rispettive fidanzate. I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito questa mattina a Gorizia e a Pomigliano d'Arco un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di una coppia, un uomo e una donna, gravemente indiziati per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'indagine era partita da una vittima alla quale era stata sottratta una carta di credito e ha portato alla scoperta di un modus operandi utilizzato in una trentina di episodi fra novembre del 2023 e maggio del 2025 nella penisola sorrentina e in altre zone della Campania. Mentre le vittime si intrattenevano i rapporti sessuali a pagamento con la donna, l'uomo si impossessava delle loro carte di credito e bancomat con i relativi codici per poi utilizzarle per effettuare prelievi e pagamenti o acquistare biglietti di lotterie istantanee. L'uomo è inoltre accusato di sfruttamento della prostituzione nei confronti della donna dal momento che metteva a disposizione l'abitazione utilizzata per gli incontri, ne pubblicizzava l'attività e divideva con lei i proventi. L'uomo è stato portato in carcere a Gorizia, mentre la donna è sottoposta ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. E ora uno sguardo al tempo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 16 gradi, a Gorizia 17, a Udine 16 gradi e mezzo, a Pordenone 16 gradi, a Forni di Sopra 12 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 12 gradi, a Tolmezzo 11, a Sappada 8 gradi e mezzo, a Tarvisio 7 gradi, sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Monte Lussari 8 gradi e 5 decimi, a Grado 14 gradi e mezzo, a Lignano 14. Le previsioni dell'ARPA: continua il periodo di tempo bello e stabile, oggi cielo in prevalenza sereno e atmosfera secca, temperature in linea con il periodo. Scioperano da oggi i farmacisti dipendenti delle farmacie private. Protestano contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro e il mancato riconoscimento professionale ed economico da parte di Federfarma. Oggi a Trieste un presidio davanti alla sede della Giunta regionale. Abbiamo sentito i rappresentanti dei tre sindacati di categoria. Oggi siamo in piazza per lo sciopero farmacie private, un settore che ha visto grandi cambiamenti durante la pandemia e post pandemia, in cui si richiedono sempre più servizi, si richiedono sempre più mansioni ai dipendenti, ma non c'è un riconoscimento professionale, economico ma anche professionale. Siamo qui per portare al tavolo la controparte e far capire che è un contratto che deve essere rinnovato per ridare dignità ai lavoratori. Sono quelli che durante il periodo pandemico sono stati i primi, sono stati quelli che hanno tenuto aperto le farmacie a favore della comunità. A fronte di una richiesta delle organizzazioni sindacali di 360 euro lorde nel triennio, non campata per aria ma frutti di calcoli specifici, Federfarma è disposta oggi a erogare soltanto 180 euro lordi nel triennio, è assolutamente irricevibile. Trieste, Biagi Ingenito, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aran e sindacati del mondo della scuola, ad eccezione di FLC-CGL, hanno siglato nella giornata di ieri l'accordo per il rinnovo del contratto 2022-2024 relativo a docenti e personale ATA. Sentiamo le reazioni. Gli aumenti medi a regime previsti in busta paga dal contratto del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2022-24 appena rinnovato sono di circa 150 euro per 13 mensilità, con punte di 185 euro per gli insegnanti in base all'anzianità di servizio e 240 per ricercatori e tecnologi. Per il personale ATA l'aumento medio mensile invece di circa 110 euro. Il rinnovo consentirà inoltre il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2.000 euro. In Friuli Venezia Giulia interessa quasi 25.000 dipendenti, di cui 22.000 solo della scuola, un risultato che divide i sindacati. Critica CGL Scuola, che non ha sottoscritto il nuovo contratto perché non recupera la perdita del potere d'acquisto reale dei salari, ma anzi al netto dell'inflazione al 17% l'Italia di oltre il 10, dichiara il segretario regionale del sindacato Gargiulo, che parla di occasione persa, ricordando come già il nazionale che gli aumenti per la metà sono stati già anticipati dal 2024 ad oggi con l'indennità di vacanza contrattuale, poiché riferiti a un contratto già scaduto da un anno. Parla invece di aumento mortificante il referente dei Cobas Scuola, Davide Zotti. Negli ultimi 30 anni gli stipendi degli insegnanti hanno perso il 30% del loro valore, rimarca preannunciando uno sciopero per il 28 novembre. Soddisfazione da CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANIEF, che hanno sottoscritto l'accordo. Abbiamo messo in sicurezza le risorse di un contratto già scaduto a vantaggio di tutto il personale della scuola, sottolinea la segretaria regionale della CISL Scuola Piccolo, che segnala di aver raccolto molta soddisfazione tra iscritti RSU. Dello stesso segno il segretario regionale della UIL Previti, che guarda già al prossimo rinnovo 25-27, auspicando che si chiuda nel breve con più risorse. Così anche il segretario regionale dello SNALS Grisi, che definisce l'accordo raggiunto un atto di realismo e responsabilità verso i lavoratori della scuola, ma anche un punto di partenza sulla strada per il pieno riconoscimento della loro dignità professionale, che dice essere ancora tutta in salita. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. È Giorgio Bianchetti di Zoppola, laureato magistrale in ingegneria meccanica all'Università di Udine, con il massimo dei voti e la lode, il vincitore della prima edizione del premio dedicato all'imprenditore e innovatore Carlo Leopoldo Lualdi. Il riconoscimento di 2.000 euro destinato a tesi di laurea innovative in tutti i campi è stato istituito dalla Rotary Club Udine Nord in collaborazione con l'Ateneo Friulano. Ben 69 le tesi candidate per concorrere al premio. Bianchetti ha dedicato la sua tesi alla progettazione del sistema di raffreddamento per la monoposto Formula Student dell'UniUd e-Racing Team. Imprenditore visionario, Lualdi fondò ad Anduins la Lima, azienda fortemente innovativa, e sempre a lui si deve il primo elicottero made in Italy. Mio padre, ha detto Gabriele Lualdi, figlio di Carlo Leopoldo Lualdi, credeva nella forza delle idee e nella necessità di metterle al servizio della comunità. Vedere oggi il suo nome legato ad un riconoscimento dedicato ai giovani innovatori è il modo più autentico di tenerne vivo il messaggio. Il corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura si articola in due percorsi: materiali, costruzione, produzione ed energetica. I principali sbocchi occupazionali sono quelli verso le industrie meccaniche ed elettromeccaniche per la conversione dell'energia, imprese impiantistiche, industria per l'automazione, imprese manifatturiere per la produzione, installazione, gestione e manutenzione di macchine, linee e reparti di produzione, aziende di servizi e studi professionali. Cristiana Viruli è la prima donna a guidare da alcuni mesi la scuola edile di Trieste, Edilmaster. È un settore considerato per tradizione maschile, ma nel mondo dell'edilizia le cose stanno cambiando e si vede da tanti diversi segnali. A luglio, come presidente della scuola edile di Trieste, Edilmaster, è stata scelta una donna. Si tratta di Cristiana Viruli, eletta rappresentanza del mondo artigiano. Ho una formazione professionale giuslavoristica, sono consulente del lavoro iscritto all'Albo di Trieste da tanti anni e bazzico, lavoro molte volte, parecchie volte con il settore edile, con la consulenza contrattuale, sono partecipe alla firma e alla stesura dei contratti regionali del Friuli Venezia Giulia del settore delle costruzioni. Un ruolo importante e non solo simbolico, anche perché dei 77 giovani che frequentano i corsi di prima formazione della scuola, ente accreditato dalla regione, il 18% sono ragazze. Vengono fatte lavorare sulle costruzioni artistiche del restauro, dei mosaici, prettamente in quel settore là, non nel settore tradizionale delle costruzioni che giustamente è prettamente maschile anche perché è faticoso. Un aiuto viene dato dalle nuove tecnologie. Come le stampanti laser verticali che permettono di eseguire alcuni lavori senza sforzi fisici. Si possono disegnare sia pareti esterne che interne stando sulla scrivania, dopo ci sono i droni, ci sono delle tecnologie che oggi possono essere usate da tutti, da ambo i sessi, maschile e femminile. Nella scuola la formazione è sia pratica sia teorica, si imparano fondamenti tecnici, giuridici, contrattuali, economici. L'operaio nasce con una gavetta, un lavoratore subordinato, magari apprendistato, però noi ci auguriamo che tutte queste persone a un certo punto della loro vita diventino imprenditori. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mobbing, dequalificazione, licenziamento, violazioni contrattuali, sanzioni disciplinari, ancora permessi per malattia e maternità, previdenza, sono le principali materie di cui si occuperà il servizio promosso da CIU, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, Union Quadri, e rivolto a quadri impiegati anche del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia. Saranno forniti assistenza legale, principalmente gratuita, e aiuto nella conciliazione. Il call center, una sorta di ufficio vertenze guidato da un team specializzato in diritto del lavoro, risponde al numero 040 97 20299 o all'indirizzo info@centrostudirossitto.it. Il ruolo della finanza, mondo del lavoro, transizione energetica, futuro delle banche, gestione del risparmio. Sono i temi di cui si discute oggi e domani a Pordenone nei quattro incontri della seconda tornata di eventi di PN Trading Places, quinta edizione del Festival della Cultura Finanziaria, promosso da Università di Udine e Comune di Pordenone. Gli appuntamenti si tengono nell'auditorium della Regione. Sentiamo di cosa si è parlato questa mattina. La recente normativa sull'azionariato dei dipendenti è al centro del convegno organizzato nell'auditorium della Regione a Pordenone nell'ambito degli incontri di educazione finanziaria PN Trading Places promossi da Università di Udine e Comune. Cristiana Compagno, già rettrice dell'Università di Udine. È un nuovo paradigma, è un nuovo rapporto che si instaura fra capitale e lavoro sulla scia delle esperienze internazionali più importanti, dove si testimonia che laddove il lavoratore è coinvolto nella partecipazione economica, finanziaria, organizzativa e gestionale dell'impresa, ha più motivazione e riesce a dare molto di più. Siamo agli inizi, non abbiamo ancora tanti modelli applicativi in Italia da studiare, ma è un fenomeno in espansione che andremo anche come università a mappare. La legge sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici nelle imprese nasce su proposta di iniziativa popolare della CISL, seppur poi approvata in Parlamento con un testo finale ridimensionato e si ispira all'articolo 46 della Costituzione. La segretaria regionale del sindacato Renata Della Ricca. Questo già si fa in molte aziende attraverso i comitati paritetici. Pensiamo alla legge 208 del 2018 che porta dei benefici attraverso la contribuzione e detassazione dei premi di risultato, ma noi come CIS non vorremmo fermarsi qua, ma dobbiamo portare avanti la partecipazione perché attraverso la contrattazione di secondo livello possiamo migliorare e rendere i posti di lavoro più sicuri. Ma le nostre aziende sono pronte? Come guardano alla nuova legge? Luigino Pozzo, presidente Confindustria Udine. La legge ha buoni principi che noi condividiamo, bisogna capire quali sono le regole. Io credo che all'imprenditore non possa essere tolta la possibilità di definire quali sono le competenze per la gestione di un'azienda. Quindi è chiaro che sono temi importanti che però bisogna che a questi temi diamo una risposta e quindi lavoreremo in questa direzione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti. Oggi Pordenone legge torna a Praga nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura, partner delle iniziative che da alcune stagioni si svolgono nella capitale ceca. Dialogo oggi su tendenze del romanzo e proposte editoriali in Italia con Federica Manzon, premio Campiello 2024 e direttrice editoriale Guanda, e lo scrittore e poeta Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone legge. Libri per la rassegna letteraria Monfalcone Geografie, protagonista Angelo Floramo, che presenterà al pubblico il suo ultimo volume Vita nei campi, storia di terra, uomini e bestie di Bottega Errante Edizioni, che esplora il legame tra uomini e animali, sacro e profano, terra e cielo, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone alle 18. Come medici, infermiere e suore fecero scappare 40 antifascisti dall'ospedale di Niguarda. Presentazione del libro e proiezione del docufilm Malati di Libertà con lo storico Daniele Pascucci nella Casa del Popolo a Torre di Pordenone alle 18. Già e non ancora di Fabio Budicin, scrittore, poeta, pedagogo, sarà presentato alla libreria Gaspari di Udine alle 18. L'autore dialogherà con lo scrittore Luca Quarin. Altri appuntamenti, conferenza di Mauro Tonino sulla complessa vicenda del confine orientale con documenti inediti e ricerche storiche nella Galleria Accademia Città di Udine in via Anton Lazzaro Moro alle 16. Emiliano Cribari, guida ambientale escursionistica e ideatore delle camminate letterarie del Cammino 23, condurrà in un percorso tra la poesia di Dino Campana sull'Appennino tosco-romagnolo, quella del triestino Scipio Slataper, di cui a breve, il 3 dicembre, si ricorderanno i 110 anni dalla morte, nello spazio forum di Piazza Ortis a Trieste alle 17.30. I Borbone di Francia a Gorizia, ricordi e immagini dell'esilio nel giorno dell'anniversario della morte di Carlo X, il 6 novembre 1836 a Palazzo Coronini a Gorizia, una visita guidata alla mostra dedicata all'esilio dei Borbone a Gorizia alle 18. Ictus cerebrale, conoscerlo per prevenirlo al Teatro Palamostre di Udine alle 18, conferenza organizzata da Alice, Associazione per la lotta all'ictus cerebrale con il Comune di Udine, progetto OMS Città Sane e la partecipazione dell'ANMIC di Udine. Come respirare meglio negli ambienti chiusi, tema della conferenza del direttore dell'Istituto di Bioeconomia del Centro Nazionale Ricerche Beniamino Gioli al Circolo della Stampa di Trieste in Corso Italia 13 questa mattina. Industria farmaceutica e mercato sanitario, ne parla Marco Cosentino, ordinario di farmacologia dell'Università di Varese, dove dirige il Centro di Ricerca in Farmacologia Medica. Organizza l'Associazione Culturale Noria all'Ultimo Mulino, via Molino 45, Bannia di Fiume Veneto. In chiusura una notizia di sport: con la pallavolo femminile di A2 la CDA Volleytal Massons ha compiuto un'altra impresa, è tornata da Montichiari con una vittoria di peso nella sesta giornata di campionato. Le friulane superano infatti la Millennium Volley Brescia per 1-3, 26-28, 18-25, 25-20, 21-25 i risultati parziali, e conquistano il secondo successo consecutivo agganciando le Lombarde in classifica, una prestazione di carattere, personalità e maturità ottenuta su un campo difficile contro una squadra fino a ieri imbattuta tra le mura di casa. partita fin dall'inizio su ritmi altissimi. Brescia trova il primo allungo, ma l'ace di Frosini regala a Talmassons la prima frazione. Nel secondo set Talmassons gioca una pallavolo quasi perfetta e gestisce il vantaggio fino al definitivo 18-25 che vale lo 0-2 nel terzo parziale. La Millennium reagisce, un paio di disattenzioni delle friulane nel finale consegnano il parziale a Brescia. Nel quarto set Talmassons parte con coraggio, Brescia tenta l'allungo, a chiudere però è un muro che vale il 21-25, la vittoria per 3-1. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Caterina Cabrelli e Roberto Cavallari, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.